Buonasera a tutti, benvenuti di nuovo a questa 15ª puntata della 7ª stagione di Mighty FM. Chi vi parla come sempre Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di Bologna. Siamo qui riuniti per parlare come ogni anno di un evento che capita sempre più o meno alla metà di aprile e che dà, diciamo, l'inizio, la stura, la stagione dei festival per noi di Mighty FM, che ormai siamo degli abituè di questo evento che si svolge collateralmente a coronamento, ad integrazione musicale, di lifestyle, di locali, di entertainment del Salone del Mobile, evento internazionale dedicato all'arredamento e al design, che si svolge la prossima settimana a Milano, e siamo qui per parlarne dal 13 al 17 aprile. Come al solito, la Design Week Festival, arrivato quest'anno alla 11ª edizione, ne parleremo in questa puntata, cominciando ad ascoltare il primo ospite, insomma l'ospite, diciamo, il capofila della prima serata del 13 aprile, che sarà un block party, come va molto adesso ultimamente in Italia, nella zona dei Navigli. Dalle 5 del pomeriggio alle 11 di sera ci sarà praticamente questa festa di strada animata dalla Ivern Discs. Per chi non lo sapesse, l'Ivern Discs è un'etichetta catalana di Barcellona creata da John Talabot, ovvero Oriol Riverola, di cui appunto fa parte lui, ma come fanno parte anche molti altri bravi musicisti, e saranno loro, ovvero John Talabot, Pional e Marc Pignol, ad animare questo block party mercoledì 13 sui Navigli. E quindi iniziamo sentendo un collage delle ultime pubblicazioni di John Talabot. Uno si tratta di Machine Synth Edit e un altro invece la sua ultima nuova creazione con un nuovo pseudonimo, ma ne parliamo tra un po'. Stiamo ascoltando l'ultima pubblicazione di John Talabot, ovvero un nuovo pseudonimo, Purple, scritto proprio P-A-R-P-L-E, number one, questa collezione di tre pezzi di cui ci stiamo ascoltando Ritual. John Talabot, vecchia conoscenza, l'abbiamo visto ormai diverse volte, era già stato a Delita nell'edizione 2013 insieme anche lì a Pional. Abbiamo giusto oggi postato sulla nostra pagina Mighty FM Radio Kairos la foto che gli ho fatto al Q nell'after party dove suonarono insieme, ma appunto lo incontriamo spesso, tant'è vero che anche durante la scorsa edizione di Robot, quando noi facevamo la driver, ci è capitato di dover andare a prendere all'aeroporto John, ovvero Oriol, e i Mod Selector, e quindi siamo fatte quattro chiacchiere in macchina, o più che altro io origliavo i grandi pettegolezzi che facevano i Mod Selector, cioè uno dei due Mod Selector, e John Oriol ascoltava tutto preso. Comunque, in quella circostanza che lui parlava dei suoi progetti, ovvero che continuava ad andare avanti la collaborazione con Axel Baumann, quindi sotto il nome di Talaboman. Ma ecco che invece il 2016 si apre con questa nuova pubblicazione, con questo nuovo pseudonimo Purple, e stiamo a vedere cosa ci porterà. Sicuramente anche il pezzo che abbiamo sentito prima, Machine Synth Edit, e questo pezzo Ritual, segnano un po' un cambiamento di suono. Siamo abituati a sentire suoni John Talabot molto balearici, molto polleggiati, molto musicali, invece questi due pezzi mi sembrano un po' più cupi. E a rappresentare la Ivern Discs c'è il suo socio, appunto spesso suonano insieme, tra l'altro tutti i pezzi, quasi tutti i pezzi cantati, quelli più belli, di Finn, l'album di John Talabot 2012, sono cantati da lui, ovvero Pional, ovvero Miguel Barros. E quando stanno insieme, beh, dico sempre che sembrano una coppia di magazzinieri della Coop. E di Miguel Barros, alias Pional, ci ascoltiamo una sua rilettura, una sua lettura alternativa di un suo proprio pezzo, ovvero It's All Over, un EP uscito nel 2014, che conteneva ben due remix diversi a firma di John Talabot, un altro Locked Groove, un altro nome che pubblica ogni tanto per la Ivern Discs. Questa invece è la Pional's Fosk version, infatti dove manca praticamente la voce quasi completamente. Pional, attivo dal 2010, ha pubblicato già 8 EP e collabora appunto in modo molto molto stretto con Oriol. Pional. Nel caso in cui gli ospiti partecipano ad un evento con un DJ set, non con un live, noi comunque andiamo sempre a far sentire quali sono le loro ultime produzioni. Dicevamo Design Week Festival a cura di Elita Milano, giunto all'11ª edizione. Ogni anno c'è una parola, un claim, un hashtag, ovviamente, che informa, che comunica appunto in modo sintetico qual è il tema del festival. Noi abbiamo cominciato a seguirlo nel 2013, quando questa parolina era We Crossover, due parole in una. L'anno dopo era Space Makers, l'anno dopo ancora è stato Borderless e quest'anno è Insiders, per un'edizione particolare, diversa. In passato c'era una sede principale, diciamo, che dal tardo pomeriggio fino a dopo la mezzanotte ospitava tanti tanti concerti, tanti live, tanti DJ set, era il teatro Franco Parenti. Quest'anno non c'è, ma in ogni giornata ci sono eventi diversi in luoghi diversi, piuttosto che poi, come spesso succedeva, dalla mezzanotte in poi 2, 3, 4 eventi sempre firmati Elita in collaborazione con altre realtà del clubbing, della nightlife milanese. E quindi da veri e propri insiders, ovvero da conoscitori degli spazi della città, spazi che contribuiscono a scoprire, a riempire e anche a recuperare, come è stato l'anno scorso con l'ex Diurno Cobianchi proprio in Piazza del Duomo, ecco che il primo evento sarà un block party in collaborazione con Wico e con Bex, perché se non c'è una birra che sponsorizza una festa di strada, come si fa? E il terzo nome che accompagnerà Oriol e Miguel è Marc Pignol. Nessuno pseudonimo per lui, è anche lui DJ sempre catalano, non ha fatto molte pubblicazioni, releases a suo nome, se non Clef 3, tipo terzo numero romano, del 2014, e fu per quello che in occasione del Primavera Sound di Porto, visto che lui vi partecipava in trasmissione a Might FM, sentimmo quel pezzo lì. Comunque sì, era un singolo, un EP, ma non essendoci altre pubblicazioni ho scoperto, cosa che non sapevo, che Marc Pignol è una metà del duo CPI, che invece conosciamo e suoniamo, e infatti adesso ci ascoltiamo un pezzo di CPI, ovvero Processo, ma neanche però nella versione loro, è una versione fatta da qualcun altro, una versione di Barnt. Lui Marc Pignol, metà di questo duo, insieme a Ugo Capablanca, CPI, CPI. E questo è il pezzo che mi piace di più. Sì, diciamo che con queste puntate dedicate a questi eventi Night FM adesso copre l'altro lato, insomma, della sua anima, lato un po' più danzereccio, più da clubbing. Infatti questo è un pezzo che noi in veste di DJ amavamo mettere, un pezzo del 2014 e la prima pubblicazione dei CPI per la Ivern Discs, che appunto animerà il block party nella prima giornata ufficiale del Design Week Festival numero 11. We'll be right back. e sfuma il Barnt remix di Processo dei CPI, non so in quale lingua si deve fare lo spelling, ma sicuramente so che di questo gruppo, di questo duo, fa parte Marc Pignol, che insieme a Pional e John Talabot animeranno il Block Party del 13, ma siamo già al giorno dopo. Come fan di solito Elita questa sua creazione primaverile fornisce sempre appunto il corredo sul cosa fare la sera quando Milano viene invasa da professionisti del settore dell'immagine, dell'arredamento, ma anche appunto di appassionati del bello o anche di semplici posers, e in serata si forniscono eventi immancabili a cui partecipare, e il 14 sera sarà la volta dei Mind Games. L'abbiamo ascoltato diverse volte nelle nostre trasmissioni, anche qui un duo di fratelli, Alessandro e Federico Fognini, di base a Berlino, che dal 2013 hanno pubblicato 6 EP, di cui gli ultimi 3 in collaborazione, uno con Locked Groove, un altro con Somne e un altro con quelli che sono un po' i loro fratelli maggiori, ovvero i Tale of Us. È stato proprio insieme a loro che nell'edizione invece del 2014 hanno fatto anche lì una seratona, che era nello spazio del parcheggio coperto della fiera di Milano, l'ex fiera, insomma non quella fuori ma quella ancora in città, ed è proprio con i Tale of Us che hanno fatto la loro ultima pubblicazione, e che è il pezzo che noi stiamo ascoltando, sempre un po' cupo come è caratteristica di tutti e due, Tale of Us e Mind Against, che tra l'altro in quell'occasione la serata era la serata della Life and Death, ovvero dell'etichetta per cui loro pubblicano, un'etichetta cui riparleremo anche in seguito, poiché è stata fondata da Manfredi Romano, ovvero DJ Tennis, tra l'altro anche uno dei fondatori di Elita una quindicina d'anni fa. E questo è appunto il pezzo fatto dai Tale of Us e Mind Against insieme, si chiama Astral. La serata che animeranno i Mind Against con degli ospiti è appunto quella di giovedì 14 presso il Wall, nuovo locale in via Plezzo 16, ovvero quella strada che costeggia i binari da Lambrate verso Centrale, fermata a metro di riferimento Udine. Mind Against All Night Long più guests dalle 22.30 alle 4, e una caratteristica della maggior parte degli eventi di questa edizione è che sono tutti partecipazione gratuita, basta registrarsi su dei siti online, in questo caso il sito di Elita, e fornendo un nome, un'email, si farà parte, insomma si troverà magicamente il proprio nome alla porta e si potrà entrare. E casualmente c'è una coerenza sonora tra il pezzo che abbiamo sentito, Astral, Tale of Us e Mind Against, e il pezzo che è iniziato adesso, anche nel suo caso una svolta un po' verso la cupezza, si tratta di Solomon. Mladen Solomon, nato in Bosnia-Herzegovina ma cresciuto ad Amburgo, fondatore dell'etichetta Dynamic, DIY Namic. insieme al suo partner, che non capisco se è dal punto di vista personale o solo in affari, Adriano Troilo, che 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, ha fondato questa etichetta, e proprio il 9 e il 10, nel weekend, ci sarà una grande festa di celebrazione del decennale con tutti gli artisti che fanno parte di questa etichetta. Ma la settimana dopo, appunto nella serata di venerdì 15, una rappresentanza della Dynamic scenderà a Milano da Amburgo per animare la serata, che invece si svolgerà al Fabric, una presenza ormai costante nella nightlife milanese anche per concerti. Penso anche John Grant ci abbia suonato in via Fantoli 9, Milano Sud, credo, a partire dalle 23, Dynamic Showcase featuring Solomon, e per questo stiamo ascoltando un collage di due pezzi tratti da la sua ultima pubblicazione del 2015. Si tratta dello Zora EP e stiamo ascoltando appunto Zora, seguito da Fantasia, scritto alla slava. Eccolo che arriva. O Fantasia. Come sempre cerchiamo di farci stare più musica possibile nelle nostre trasmissioni, quindi insomma ogni pezzo, ogni mix è un po' sacrificato, un po' tagliato. In questo caso abbiamo unito due pezzi di Solomon del suo ultimo EP, Zora, era Zora e Fantasia. Ma dicevo, in rappresentanza del, come si dice, del roster, della scuderia, della sua etichetta Dynamic, ci saranno anche gli Undercut. Come spesso succede, fanno insomma fortuna, si fanno conoscere, si fanno apprezzare all'estero, come nel caso di Mind Against degli italiani. In questo caso ancora un duo, Luca Luperini, perché o la musica elettronica o si fa da soli o si fa in due, e è sempre così, quasi sempre così. Luca Luperini e Elia Crecchi. Cioè, il 2015 è stato il loro anno magico, per cui hanno anche voluto fare un regalo ai loro sostenitori regalando il download gratuito sul loro SoundCloud un pezzo Voyage, ma invece adesso noi ci ascoltiamo un pezzo nuovo di Zecca, insomma pubblicato lo scorso febbraio, si chiama Coral Undercut. Undercut Coral, l'ultimo pezzo pubblicato da questo duo italiano Undercut, che a vedere a loro Facebook sta girando veramente in tutto il mondo e che fa parte appunto della scuderia della Dynamic fondata da Solomon e Adriano Troilo ad Amburgo. Come abbiamo scritto anche nel testo di presentazione di questa puntata e come abbiamo già detto, ogni edizione ha un tema, un contenuto, e in questo caso è Insiders. Elita occupa la città, conosce la città, ha contribuito negli anni a scoprire ed allargare gli spazi, ad annullare anche le differenze, appunto con un crossover, una commistione di generi che vengono sempre rappresentati la loro varietà e numero in ogni edizione. E quindi partendo dal block party del 13, poi si va in un nuovo club, il Wall, il giovedì, e il venerdì invece al Fabric, perché là, il venerdì comincia a essere una delle serate più calde. E ad accompagnare gli Undercut e Solomon c'è anche un altro musicista, si tratta di Johannes Brecht, che nasce come arrangiatore orchestrale per un altro musicista, Eric Schwartz, quindi formazione classica, e dopo dal 2013 pubblica 7 tra singoli ed EP. E tra queste pubblicazioni noi abbiamo sempre, cerchiamo sempre di scegliere insomma quelle più recenti, 2015, Trois Nocturne. Ci ascoltiamo il secondo pezzo di tre, si chiama Sirène. Leggiamo dalla bio di Johannes Brecht sul sito della Dynamic che appunto quando Erich Schwarz si è reso conto insomma dei talenti da arrangiatore del membro del suo gruppo, ovvero Johannes, ha deciso di far rivivere, riattivare la sua etichetta Sunday Music nel gennaio 2013 per pubblicare un EP di Brecht, Holla. Già all'età di 5 anni, venendo da una famiglia di musicisti, Johannes ha cominciato a suonare il pianoforte e poi ha sviluppato una passione per la musica jazz, cosa che lo accomuna a qualcuno che sentiremo tra poco. E quindi come passo logico successivo ha cominciato a studiare double bass e basso elettronico, sia jazz che pop, in un college a Stoccarda da cui viene. E dopo qualche tour con delle orchestre in Europa e in Asia, ha sviluppato il suo interesse per lo studio delle nuove tecnologie, insomma, quindi della musica elettronica, e ecco il risultato. Ed è sempre una selezione, un edit, quello che abbiamo ascoltato, Sirène, tratto da Trois Nocturnes di Johannes Brecht del 2015. Ma finisce la serata del Fabric dedicata alla Dynamic. E passiamo a un altro evento. Siamo arrivati al sabato 16 e in via Orobia 15, dalle 15 alle 23, c'è un evento organizzato da Elita in collaborazione niente po' di meno che con la Nike. Si tratta di The Nature of Motion, Endless Explorations of Movement, Anche questo è un evento a cui si partecipa gratuitamente previa registrazione sul sito nike.com. Nike. E chi animerà queste 8 ore di party? Di metà se ne occupano, come spesso fanno, come infatti abbiamo scritto, il collaudato DJ set back to back di 4 ore ad opera di Daphne e Floating Points. Daphne, pseudonimo di Dan Snaith, ovvero Caribou, che appunto in questa veste con Floating Point USA ci ha fatto anche un bel jingle, infatti quando ci abbiamo parlato un paio d'anni fa, poi l'abbiamo rivisto e rivisto e rivisto e rivisto e salutato e rivisto, appunto quando era con Fortet nel backstage del Franco Parenti, anche lì in veste di Daphne. E dicevo, questo set di 4 ore back to back insieme a Floating Points, come anche nell'ultima edizione di Robot qui a Bologna, e per rappresentare la produzione di Daphne abbiamo scelto questo pezzo che non conoscevamo, un singolo di 2 pezzi fatti insieme al nostro amato Owen Pallett. Si tratta di Julia e Tiberius del 2014, e questa è Julia. Pezzo Dan ci ha messo il beat che nelle composizioni e nei set a nome Daphne incorporano molto i suoni africani, e ovviamente Owen ci ha messo il suo violino. Daphne è uno pseudonimo che Dan Snaith usa dal 2011, ha fatto un solo album nel 2012, Xiao Long, che è anche il nome della sua etichetta di base a Londra, lui è canadese. Per cui quindi ha pubblicato anche questo singolo, Julia e Tiberius, insieme a Owen Pallett. Ma un personaggio meno conosciuto da noi, anche se abbiamo fatto sentire un pezzo in occasione della puntata dedicata a Club to Club di Torino, perché nella seconda giornata, mi pare proprio a cavallo della mezzanotte, infatti l'orario strano era 23:59, mi sembra presso il conservatorio, no, il conservatorio era apparato, no, era presso il Teatro Carignano di Torino, si è esibito Floating Points col suo ensemble di 16 elementi. E c'era quell'orario perché proprio alla mezzanotte scoccava la data del 6 novembre, che era la data della pubblicazione del suo album Elenia, e per questo in quell'occasione facemmo sentire Argenté. La cosa caratteristica di Floating Points, ovvero Samuel Shepherd, ragazzotto con le guancette un po' rosse, biondino, occhialuto, è che lui è un neuroscienziato, così come Dan Snaith è un matematico, insieme a sua sorella e suo padre. Samuel Shepherd è un neuroscienziato, e questo giro invece abbiamo voluto dedicare più spazio unendo insieme 3 pezzi del molto bello Elenia, iniziando da questa Nespole, seguita da Thin Air e da Peroration 6 Floating Points. E dopo Nespole siamo passati a Thin Air, sempre Floating Points, che però ad onor del vero era anche già venuto a Bologna in una serata organizzata da Fine Fame, Fine Fame, come anche quella di Caribou. Ed ecco che nel prossimo pezzo per Oration 6 si sente tutta la passione per il jazz. Ovviamente non sarà questa la musica che si sentirà nel set di 4 ore back to back con Daphne, perché in quel caso loro privilegiano dei suoni molto molto caldi, molto funky, molto disco. Batteria jazz, invece un suono di pianoforte che ricorda un po' i Radiohead all'inizio della svolta, ai tempi di Kid A e Amnesiac. deve finire purtroppo per Oration 6, tratta da Ilenia, come gli altri due pezzi che abbiamo sentito, Thin Air e Nespoli di Floating Points, ovvero Samuel Shepherd, che animerà insieme a Daphne 4 ore di DJ set, che immagino sarà nella parte finale di questo lungo, lungo evento che inizia alle 15 e finisce alle 23 in via Orobia 15, organizzata in collaborazione con Nike, The Nature of Motion, Endless Explorations of Movement, live from NRC Block Party. Andatevi a registrare sul sito nec.com se volete parteciparvi, ma ovviamente non saranno soli, perché le altre 4 ore verranno animate da Jennifer Cardini, ovvero DJ francese e fondatrice dell'etichetta Correspondant, direi, allora, visto che lei è francese. Dal 2010 lei andava molto ai tempi di quando è venuto fuori, insomma, Miss Kittin e tutto l'Electro Clash, l'abbiamo anche vista e ci abbiamo anche parlato, scambiato due parole con un po' di timore, perché diciamo che lei è un po' una camionara che fa paura e che, se guardi, tipo, non so, la guardi male, potrebbe, insomma, prendersela un po'. Jennifer Cardini, che oltre ad aver creato questa etichetta, di cui sono molto belle, molto utili per conoscere musica nuova, sono le compilation che fa ciclicamente, ha fatto ultimamente un EP, The Ballroom EP, in collaborazione, come spesso capita, con un altro musicista. Quindi questo pezzo che stiamo ascoltando è Cardini and Shaw, David Shaw, di Manchester. Questo è un pezzo che si chiama Pepper La Beija. Per la Beija, Cardini and Shaw. Ovviamente tutti i pezzi che metto in playlist sono pezzi che io scelgo, che mi piacciono di più tra le pubblicazioni degli artisti che partecipano agli eventi di cui parliamo, e questa pubblicazione Ballroom EP ci piaceva di più, questo terzo pezzo. E ultimamente Jennifer Cardini ha anche curato una compilation, Ich laufe, du laufst, wir tanzen. Compilation, che significa tipo io corro, tu corri, noi balliamo, e ci farà ballare Jennifer Cardini sicuramente questo evento del sabato pomeriggio durante la settimana del Design Week Festival curato da Elita, di cui parliamo oggi a Might FM, cercando di far ascoltare tutti gli artisti che vi partecipano e insieme ai suddetti Floating Points, Daphne e Jennifer Cardini, c'è un altro soggetto che già conoscevamo perché abbiamo un paio di suoi EP e anche questo suono abbastanza cupo. Si tratta di White Square e è un altro italiano, romano in questo caso, Maurice Uzan, di base a Roma, perlomeno attivo dal 2014. Nel 2015 un EP, Pix, un altro EP più recente, Path of Time, ma l'ultimissimo proprio a marzo è After Infinity, da cui ci ascoltiamo questa Airborne. Della disco music, come ai tempi della dance anni 90, gli italiani sono sempre stati grandi produttori di musica elettronica e fare queste trasmissioni mi permette di scoprire che molte della musica che io scopro, che ascolto e che metto è ad opera di nostri compatrioti, come forse, perché ha un nome comunque particolare, Maurice Uzan. E si trattava di Airborne, tratto dal suo ultimissimo EP After Infinity. ma l'evento di cui abbiamo appena parlato occupava la porzione pomeridiana dalle ore 15 alle ore 23, ma ovviamente poi c'è il programma serale e notturno che si svolgerà ancora di nuovo al Wall come la serata di giovedì 14, ovvero via Plezzo 16, zona Lambrate, sopra Lambrate, vicino la fermata metro di Udine. È una serata dedicata, insomma, come vede, come ospite di punta il giovanissimo David August. E questa è la sua ultimissima, pubblicata all'inizio di marzo di quest'anno, JBY. David August, vero cognome Nat Kemper, italo-tedesco di Amburgo, classe 92, credo, ha iniziato a suonare il pianoforte anche lui a 5 anni, a 16 ha cominciato a fare elettronica, è la prima pubblicazione a 17 con prima pubblicazione per la Dynamic, sempre la stessa etichetta di Amburgo, di Solomon, con un remix per Oliver Kolecki, ma già dall'anno prima, 2009, aveva pubblicato un primo EP, Trumpets of Victory. E quindi nella serata di sabato al Wall continua comunque in un certo qual modo uno showcase che riguarda anche la Dynamic ancora, visto che appunto il primo EP per la Dynamic, Instant Harmony, lo ha pubblicato David solo a 18 anni, già a 18 anni, insieme poi anche a altri 6 EP e un album nel 2013, Times. E finisce JBY, anche questa l'abbiamo dovuta un po' sfumare alla fine, ma poi quasi tutte le pubblicazioni di David August dal 2009 in poi sono state per la Dynamic Music, a parte un paio di uscite per la Steel for Talent e la Inner Visions, anche questa molto bella etichetta, e poi tantissimi remix per tantissimi altri artisti. come questo è un remix ad opera di Massimiliano Pagliara, italianissimo, per un altro duo di base a Milano, cui metà è un DJ molto conosciuto, Marcello Carozzi, insieme a John Ming, non sappiamo se sia uno pseudonimo o il nome vero. Questo duo si chiama Younger Than Me, come insomma succede a me, adesso praticamente tutti sono Younger Than Me, e questo pezzo si chiama Honey, è la prima uscita ufficiale di questo duo, Younger Than Me. Honey contiene 2, 3, 4 pezzi. Diciamo il pezzo principale è una traccia vocale con una voce femminile. Noi abbiamo un po' di problemi con le voci femminili nelle tracce un po' così di house, preferiamo sempre le versioni dub o le versioni strumentali, ed è per questo che abbiamo scelto il remix dub, perché ce ne sono 2 a firma di Massimiliano Pagliara. Insomma, questa è Honey, Younger Than Me. Nella rivisitazione remix dub Massimiliano Pagliara, una pubblicazione recentissima di questo duo di base a Milano, Younger Than Me, Marcello Carozzi e John Ming. E un evento ormai classico, costante, come il Design Week Festival a cura di Elita, nell'ambito del fuorisalone, cioè tutto quello che gira intorno al Salone del Mobile, non è l'unico evento che si svolgerà in quella settimana, ma siccome appunto sono tanti gli eventi che animano le serate e le nottate di Milano durante il Salone del Mobile, insomma non si poteva andare un po' a pestare i piedi venendo da fuori a Milano, e quindi i torinesi del Club to Club faranno da oggi fino al 9 una versione in trasferta meneghina del Club to Club, ovvero hashtag C2CMLN, ovvero Club to Club va a Milano. E da oggi i magazzini generali ci sarà l'unica data italiana degli Animal Collective, tra l'altro, che vedremo però a Porto, accompagnati da GFOTY, da Michael Michael Seifu Etiopia, DJ Marfox e DJ Nigga Fox di Lisbona, se li sarà portati dietro Noah Lennox, visto che vive a Lisbona, e poi Lotic. E poi ci sarà l'8 aprile alla Buca, ex cinema Aramis, una serata curata da Arca con Baby Father, Michael Levy DJ set, ovvero Mikachu and the Shapes, Arca DJ set più Mesh dagli Stati Uniti e Ivo dal Portogallo di base a Londra, per finire con il 9 aprile il Santeria Social Club, la celebrazione del primo lustro di vita dell'etichetta Diagonal, ovvero Powell, Not Waving e Jamie, accompagnati anche dagli italiani Grand River e da Alberto Ricca in arte Biennoise. Insomma, questo è il programma che anticipa la settimana del Salone del Mobile, insomma il weekend precedente a Milano ad opera del Club to Club. e sfuma così questo molto gradevole remix degli Younger Than Me, che invece animeranno la nottata del sabato al Wall a Milano per il Design Week Festival insieme a David August. Ma come succede appunto sempre al Design Week Festival, c'è l'ultima giornata, la domenica, che come si direbbe a Bologna è la giornata del polleggio, è la giornata del groove, la giornata anche dell'hip hop, del rap, e in grande spolvero, in grande rappresentanza di questa scena, una delle figure storiche, ovvero DJ Jazzy Jeff, che chi se lo ricorda era anche il migliore amico e in quanto tale, in quanto DJ, era il DJ che ha pubblicato tutti i suoi primi dischi insieme a Will Smith, ovvero The Fresh Prince, il principe di Bel-Air. Io non lo guardavo, però insomma lui era un personaggio costante in questo telefilm. Disc jockey, R&B, hip hop, produttore, maestro del turntable, ovvero dei piatti, e appunto meglio conosciuto per l'inizio della sua carriera come parte del duo DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince con Will Smith. E invece noi stiamo ascoltando un pezzo molto bello di un ultimissimo EP proprio di questi giorni, una collaborazione con un altro produttore e musicista americano, quasi coetaneo, ovvero James Poyser, famoso invece lui per aver costruito tantissimi successi, tantissime canzoni per artisti come Erykah Badu, Mariah Carey, John Legend, essendo lui membro anche dei The Roots. Ha lavorato poi con D'Angelo, Lauryn Hill, insieme appunto a Jazzy Jeff, hanno fatto questo EP che si chiama Snow Beats, e questa è Snow Disco. E quindi Jazzy Jeff insieme a James Poyser, session man di lusso, anche ha lavorato con Jay-Z, Eric Clapton, Adele, Norah Jones, Ziggy Marley, Macy Gray, eccetera eccetera. Ma Jazzy Jeff, lui, sarà ospite del Design Week Festival a Spirit de Milan, presso le ex cristallerie Livellara in via Bovisasca 59. Anche questo un evento a cui si può partecipare gratuitamente registrandosi sul sito di Elita. Una serata di chiusura in collaborazione con la Red Bull Music Academy, che c'è sempre in questi eventi. Dedicata ai suoni più R&B, più black. Giornata conclusiva del salone, quella di domenica 17, infatti uno degli eventi anche patrocinati da Elita sarà anche la cerimonia di consegna del Milano Design Award presso IED Moda di via Pompeo Leoni 3, mi sembra sia vicinissimo ai magazzini, ma questo solo su invito, nell'ora insomma dell'aperitivo mattutino. E finisce Snow Disco, tratto da Snow Beats, Jazzy Jeff e James Poyser. Molto bello, anche tutti gli altri pezzi sono molto molto belli. C'è anche una cover di Bang Bang, sì, quella Bang Bang. E insieme a Jazzy Jeff ci sarà anche il live di Honra. È tratto da Fundamentals del 2015 di Honra. Ci ascoltiamo Long Distance featuring Olivier Day Soul. Molto soul. Long Distance di Honra, ovvero Arnaud Bernard, beatmaker hip hop francese di base a Parigi, attivo musicalmente dal 2006, nato nell'81. Che accompagnerà Jazzy Jeff e non solo lui nell'ultima serata conclusiva di domenica 17 il Design Week Festival. Ci saranno anche molti altri artisti che non abbiamo nominato, tipo Block Party. Nel primo giorno ci sarà anche Enroll H. Rame, conoscenza, insomma personalità anche di queste parti. Poi nella serata del venerdì ci sarà anche Andrea Rango e molti altri artisti, come anche nella serata conclusiva di questa edizione del Design Week Festival, nomade, diversa dal solito, più sintetica, più essenziale, più ordinata, più semplice, forse anche meno faticosa per chi come me parteciperà almeno parzialmente. Questa edizione, che come abbiamo letto nel comunicato e riportato, privilegia il lato in continuo cambiamento di Elita per manifestarsi in spazi diversi e diventare così l'anima mutevole e segreta della settimana del Salone del Mobile. Festival caratterizzato dalla costante ricerca e selezione di contenuti innovativi, l'edizione 2016 presenta un programma integrato con gli appuntamenti della Design Week, e questo è l'appuntamento della domenica sera, dedicato, come abbiamo detto, ai suoni più soul, più R&B, all'hip hop, al rap. We'll be right back. e finisce Honra o Honra, vero? Arnaud Bernard from Paris, che si esibirà invece dal vivo, fra insomma un concerto dal vivo. E siccome il 17 noi non saremo a Milano perché saremo qui a Bologna, proprio nel cortile, si spera, a tempo permettendo, il TPO per il mercatino di Radio Kairos, che ritorna a furor di popolo per la seconda volta, significa che mi perderò, come anche fu in occasione Club to Club, mi perderò un musicista che invece a sentire il suo disco mi piace moltissimo. Allora mettemmo un altro pezzo di quest'album che si chiama Body Pill del 2015, lui è Anthony Naples e questo pezzo è Refugio. Di base a New York, che in questo disco ha voluto catturare un po' la frenesia, i suoni, la sensazione che ti dà la città. In occasione della puntata dedicata al Club to Club mettemmo, mi sembra, Used to Be, questo invece è Refugio. Che capiterà di vederlo davvero, Antonio Napoli. Ma sebbene noi vogliamo molto molto bene ad Elita Design Week Festival, non poteva sfuggirci che ovviamente, come dicevamo, gli eventi collegati a Fuori Salone, tutto quello che gira intorno al Salone del Mobile, sono tanti, e ce n'è un altro che a livello di musica e di scena simile, comunque della musica elettronica, della scena del clubbing, si svolgerà sempre venerdì e sabato, e noi ne diamo notizia per dovere di cronaca. Forse, non so, parteciperemo, forse riusciremo a farci un salto, chissà. E si tratta delle serate organizzate da Hyper Music, anche in questo caso partecipazione gratuita attraverso la registrazione sul sito hypermusic.it presso il Teatro Principe di Viale Bligny 52. Queste due serate, venerdì 15 e sabato 16, ovviamente serate di punta. E adesso ci ascoltiamo in rappresentanza di queste due serate un mix piccolo piccolo, ovvero ospite principale della prima serata l'australiano Tornado Wallace, nome romanzesco, insieme a Christian Russo e Nicodemo occuperanno, tra virgolette, la prima serata. Questo pezzo è Kangaroo Ground. del 2015. Questo pezzo che ci abbiamo mixato insieme invece è dell'ospite principale della serata Hyper Music presso il Teatro Principe di Milano per gli eventi fuori salone di sabato 16 aprile, ovvero il molto più famoso, almeno per me, rispetto a, con tutto il rispetto, di Tornado Wallace, ovvero il mancuniano Ben Pierce, che quella sera sarà insieme a Modular Project e Superfine Rebel, e di cui appunto stiamo ascoltando sua ultimissima pubblicazione, Pomelo EP del 2016. Uno dei pezzi contenuti si chiama 12407, in cifre 12407. E finisce 12407 di Ben Pierce in rappresentanza delle serate organizzate da Hyper Music, ma noi abbiamo dedicato tutta questa puntata al Design Week Festival curato da Elita, ormai giunto alla sua 11ª edizione. Eventi che iniziano mercoledì 13 e si concludono domenica 17 di sera, ma un altro nome di punta che abbiamo nominato prima come fondatore sia di Elita che dell'etichetta Life and Death è Manfredi Romano, in arte DJ Tennis, il cui tocco nei remix, come per esempio il pezzo Tender Skin, uno degli ultimi di HVOB, è bellissimo, e anche nel suo EP Local di un paio d'anni fa. Ma ultimissima è un altro singolo, due pezzi, si chiama Chirality Divisions, che contiene anche due remix a firma niente po' di meno che uno Roman Flügel, un altro invece Played, e ci stiamo ascoltando la bellissima Divisions, cui partecipa il cantante chitarrista danese Jeppe Kjellberg. Pezzo magari non da ballare, più da chill out, più da alba, ma perché ascoltiamo in chiusura di trasmissione DJ Tennis? Perché ci sarà proprio qui da noi a Bologna la preview del Design Week Festival, e sarà domani, venerdì 8 aprile, presso il Kindergarten di Via Calzoni qui a Bologna, serata organizzata da Razor Get Sharp in collaborazione appunto con Elita. Ci portano a Bologna, DJ Tennis, Gommage DJ Team e Angelo Andina, ma questa è la bellissima Divisions. Leggiamo dal testo a corredo di questo pezzo sul SoundCloud della Life and Death: "You know it's true, don't you?" Lo sai che è vero, a volte le emozioni possono veramente disturbarti e turbarti mentre fluiscono nel profondo della tua coscienza e scoprendo, insomma, tenendo scoperto le paure, i pensieri e i sentimenti. Sicuramente non sarà questo il suono della serata di domani, ma volevamo dare, insomma, riconoscimento, far sentire, godere di questo bellissimo pezzo, ultimissima se non altro, perché è proprio l'ultimissima pubblicazione di Manfredi Romano in arte DJ Tennis. Abbiamo detto Divisions Chirality e sarà ospite domani a Kindergarten per la Design Week Festival 11 Insiders Preview. E lasciamo così questa bellissima canzone a conclusione di questa puntata dedicata come sempre all'Elita Design Week Festival Salone del Mobile dal 13 al 17 aprile, ma domani a Bologna la preview con DJ Tennis finisce Mighty Mau, finisce Mighty Mau, finisce Mighty FM, Mighty Mau, è finita da un pezzo. Ciao.